bene, grazie. Tratto Steppa, ne ha dato la pace, la luce, ha visto io Geraldino a fare Ricci. Beh, alla comincia. Ma io era presente un particolare nome, che me la vedo. Che ogni tanto la corrente aumentava e diminuiva. Quindi da un rosmetro, dalla padina di un rosmetro, a momenti si alzava, a momenti si traballava. Stavano le penne dall'alimentatore, però è dall'alimentatore, evidentemente quella che conta. Stavano di samba giù a parecchio, un po'. Guardate, siete romantici, eh no? Un po' cupa è questa, l'altra radio. È un po' più cupa è, infatti, l'altra radio è. Ma già si sento bene lo stesso. Ma noi che caso ci ha alimentato uno, toccatola. No, è un alimentatore, questa 24-24, dice, no, va sempre la verità attesa, non è caso, attesa, lui ora attesa, per Massimini. No, il cattarico non mi raffegne, però, la faccio qua mai bene. Aspetta, aspetta un attimino, il controllo, grazie, un attimo. Sì, già sono qua. Sì, allora prendo un casomai allo sbarco, già la giacchetta, vada sul rosmetro, se me la abito subito, si manca appena appena lì, aumenta o diminuisce, dai. Gli spinocchi bene sono messi. No, ma è da dentro l'alimentatore. Però qua non me lo sta facendo. Questo è quell'apparato, infatti, di quello uguale a quell'altro, c'ha. Cioè. Quello è un altro, assorbe di più, capito? Allora provo a lasciarlo qua, a vedere, ha cambiato parecchio. Se vi lo posterò, lo fa anche qua. Non dipende dall'alimentazione di quella trapparizia, boh. E provo a rimettere quello che lo faccia, ma vedere se lo fa. Grazie. Dimmi. Adesso non lo sta facendo, ma ecco, già lo sta facendo. Sì, ogni tanto lo farà. E allora quel baracchino ci avrà qualcosa. E io pure penso così, a momenti si abbassa la luce, ma a momenti diminuisce e aumenta subito, capito, in fretta. E prova un altro alimentatore a vedere se fa la stessa cosa, non ce l'hai lì un altro alimentatore? E vado a fare un travaglio enorme, ragazzi, questa è una parola. Potrei fare ugualmente. Aspetta. Fai la prova, se ce l'hai lì un altro alimentatore e guardi la luce, se fa la stessa cosa. Se fa la stessa cosa è dal baracchino. Grazie. C'è un bambino, una chiave rapida, non so che ce lo fatti. Ora. Bene, sta andando? Sta facendo bene. Con l'alimentazione. Quella là è 55 ampere, questo da 30 ampere. Come mai, strano, se ti si abbasciava e da bruci a dormire la luce? Ballava la luce, hai capito? Tu a che cosa va? Adesso questa è un'altra cosa. Vediamo un po' là. Vediamo un po' se si abbassa questo qua. Vediamo di nuovo. eventualmente domani lo controllo quell'altra realtà per un po' questo acciacco. Ma che male sarà, non può tenere le cappe di ripone, dice, cazzo. Ha giocato un mese di un'altra, 180 di qui, mi riaprà, vuoi dire, 185.000 lire, ho pagato io. Ma la radio l'ha alimentato? L'alimentatore è grande questo qua, dove posso andare a 24-24 camminare, no, acceso, capito? Strano, se te lo passano con quella radio e con l'altra non te lo fa, secondo me è la radio, magari c'ha più meno potenza a questo, non è che tu se tu qua con l'alimentatore vai su, fai la radio. L'altra radio non ne fa niente, grazie. Il voltio sono sempre quello, sono 13,8 come tutte le alimentature, capito? Ho provato anche con la fortezza e la tensione quella là. Ah, solo gatto, boh, avranno le premi, a me sempre viscia, bella, pulita la luce, invece quell'altro alimentatore mi balla ogni tanto. Sì, manca poco a poco e dopo si ritorna a posto, capito? Non sarà il filo della radio della lucetta, no? Che magari mezzo cattato. O se ne andrà nella lampadina, boh? Ma quello l'aveva fatto solo con la radio, ma lo fate pure con la lampadina per un rosmetro, che io un rosmetro c'era lucetta, capito? E per cui la roba che ci va solo in un lungo, invece lo fate in tutti e due, capito? Ah, c'è anche la luce che l'hai collegata a tulle. E noi che ti fai come te, ha fatto a me che l'alimentatore stavi a bui sulla lucetta, Trento. Due lucette ci avevo messo, la ventolina, e infatti nella borsa l'abbiamo cremato tutti e due baracchi. Ma questo ho fatto dalla casa, il rosmetro, capito? È fatto apposta, capito? Questo è un rosmetro buono, non è che costano due soldi, no? È un rosmetro buono questo. Ma farà a casa così, e ci mette l'alimentazione dentro il rosmetro, capito? C'è il filo e attacchi all'alimentatore. Ah, no, pensavo che l'avevi aggiunti tu, no. No. È da a casa così, capito? Oh, però già sta andando. No, mi sembra che stia funzionando bene qua. Allora l'alimentatore che lo sta partendo, boh. Se no te l'aveva fatto la radio che è attaccata all'alimentatore al sulla. Se te lo fa solo con quella radio. Ma no, lo fa anche con quell'altro apparecchio, va. Lo fa con quell'altro apparecchio anche. Ma no, era l'alimentatore, là, mi sono avvisato, lì c'è bella pulita la luce, tranquilla, dai. Manca qua. E dall'alimentatore, allora veniamo un po' domani lo dovrò provare, quindi lo controllo prima, là. E la presa tutta a posto è quello, dell'alimentatore. Ma ci avrà il finale anche quello, non è che il finale toccate la stessa calde. Non cadono questi graziani, che non cade il finale vicino. C'è stata la pentola in funzione, che c'è ghiacciato a dare giù. Non cade nulla. Sì, è strano, a fare il suo difetto vuol dire ma qualche cosa che ne andrà in assaive. Se prima non le faceva mai. Graziano! No, lo facevano. E a che cosa va? Domani il controllo. Mica c'è uno che ti sta chiamando. Avanti, buonasera, chi è? Graziano! Dimmi! Roberto sono. Chi sei, Roberto? Roberto Aliquaglia. Ti sento basso, Ciao Maria, lo senti tu? Prima lo sentivo bene quando ha chiamato a te. Boh, avanti, chi sei? Roberto Ali di Quaglia. Roberto? Roberto Ali di Quaglia. E dopo mi stiamo curando? Da Osilo. Da dove? Da Osilo. Ah, da Osilo. E in mezzo a quel rembe sei, sei un bel basso, sei. Ma appena arrivi qua, capito? Boh, lo senti tu qua adesso? Roberto copiato, basso basso, Roberto chi? Tu sentito anche da Osilo l'ho sentito da te. Come mai sei così basso? Perché sono antennino. Non ti saluti da babbo mio. Ehi, gli ha ricambiato i saluti, cosa c'è un antennino Giovanni? Sono copiato. Fa passaggio che ti ho sentito un paiolino di più. C'è un antennino di gomma. Un antennino di gomma c'ha. Ah, un antennino di gomma, adesso ho copiato. Vieni avanti a ver se ti copio di più. Guarda un attimino adesso, mi sto spostando nella casa. Forse mi copi meglio, mi. Sei in mezzo al QRM, ho sentito un fischio, boh. Prova a venire avanti a vedere. Guarda un attimino adesso, sei meglio. Che mi sto allontanando, sto andando verso nella stanza più grande. Non ti capisco, Prova a spostarti sul canale 4, se mi copi, sul canale 4. Cioè, avanti Roberto, dove un po' vai, riprova. Nel soggiorno, guarda adesso. Ah, in soggiorno, sì. Adesso ti ho copiato bene, ecco. Adesso ho copiato bene, bene, veramente. E a me bene mi senti? Benissimo. Ok, adesso la posizione tua giusta, Poco fa hai detto, ti mando i saluti da chi? Mio padre, a cosa? Graziano. Da tuo padre, saluti a Graziano. Ehi, lui si chiamava Giovanni Peraccotta. E chi? Mio padre, Giovanni Peraccotta. Ah, Giovanni Peraccotta chiamava tuo padre. E Graziano, ti ricordi? Non me lo ricordo adesso. Giovanni Peraccotta, di Ugilo. No, non mi rammento, vai. Dove stai modulando? Da oggi, da vicino al castello, su sì. Guarda che babbo vendeva formaggio con un camioncino, mi. Ah, allora già ho capito che eia, il camioncino bianco ci aveva. Eia. Già me lo ricordo adesso, quel tipo un po' robustello era così. Abbastanza grassottello, già è ancora così. Salutamelo, da parte mia, già sono curato senza vinillo. In pensione adesso, in campagna se ne sta andando. Fatti bene, tanto che hai già travagliato, anche io sono in pensione. Ho capito, dai, rientro subito un attimino che vedo se posso uscire meglio. Adesso ti ho sentito meglio questo passaggio, Sto tenendo l'antenna in mano adesso. Ah, beh, non la puoi bloccare in qualche modo. Che cosa, la mano o l'antenna? L'antenna! Adesso trovo un po' di scotch l'attacco. Prova, adesso sta uscendo meglio, vero Giovanni? A 100%, cazzo, adesso lo sento benissimo e ti riesco a capire bene anche quello che dice, ma poc'anzi il QRM te lo copriva completamente, ma evidentemente c'è l'antenna rotta e adesso la bocca, grazie a quello scoccio e può darci di dopo magari e rimane più solida e riesce bene sempre, capito? Adesso però lo sentivo un po' più forte, Cioè, vabbè che c'è il QRM, però sul 4 lo senti di più. Buonasera anche a lei, avanti, a porte aperte. Buonasera, ben risentito. Di Graziano, il sottoscritto, il barbiere di Siviglia. e l'altro è uno da Usilo che sta circa una donatella che lo copiavamo male, forse rientrerà subito. Avanti, riprende, salva e per chi fui. Ebbe Eugenio, ciao, buonasera, ben sentito. Che si dice, cosa si dice? Oggi c'era una bella giornata, oggi pomeriggio mi sono andato a fare un po' di asparagi e finocchietti. Ehi, ah no, quelli me li faccio domani notte, me li faccio per stanotte, la cena già ce l'ho. E adesso si comincia più se la propagazione arrivano, che sembrano qua. Riprendi Giommari. Ma Giommari ci divasse a fare regolari mentalori. E tu cosa hai fatto di bello, Eugenio? Lo vedi oggi? A Zonzo. Non lo senti a quello quanto è forte. È un bel forte, ma giù ci sono se trattendi. Chi sono qui? Cioè, Mario, qui state a sopramodulato, cosa hai detto? Apparecchio, il tuo. No, che già ricopro l'adattatore al capo dell'antenna. che la puoi dare in pegni a due scivolchi. E minori mai hai scivolchi, minori, insomma, sarà cante una volta. Sì, i minori tu. Yeah, yeah, yeah. Hey, facci. infatti è così, è veramente penetrata leggermente di umidità sull'incasso, capito? Da un tubo e l'altro, e allora ha preso l'umidità e si è incrostata, e non ha mollato per quel motivo, grazie a me. Capito? Però quella lì, adesso, ripulendola bene, basta buttare a mettere quello plastico che mettono sull'alluminio e rimane perfetta, con le gaffe nuove, e a te la va bene, capito? A te va bene. Lo stilo, bisogna mettere a posto lo stilo, capito? Perché un pezzo solo mi sembra che è un po' malandato, così. No, l'ultimo pezzo della punta, ci manca quella stellina che c'era incassata. E la seguita l'ha truccato il vento, ma è un pezzettino, la penna esce bene. Sarà voi, se no me ne la salgo qui, cioè me la pulisco io e mi piazzo quella lì la pulita, quella bigorra che ho adesso. Che anche quella è senza radiali, però già sta funzionando. Copiato mi hai! Romero sei uscito e... Senta no, adesso, grazie. Negativo, non lo copio, boh! Non stai uscendo! Sei butto! Ma... Fusua! E chi è avanti? C'è un innesco, c'hai, controlla bene l'antenna che c'è un innesco, c'è la portante ma la radio è... quasi non ti capisco, capito? Roberto sì, non sei uscendo, non è capito, poco fa sì, stavi uscendo bene poco fa, è strano che adesso non c'è radio, non ho capito. Allora ho preso un lapsus. E chi sei? Chi? Franco di Sorso! Ma lascia andata a finire! Boh, a porta Ipei! Non ti sento più, frae! Io via quel portatile che non va bene, gatta, gatta, non portate lo riso a capire che sei tu! Mi sembra di Roberto di Usino, gatta! Ma c'è il segnale, c'è, guarda, sei 995, guarda il segnale, tra radio, di mezzo, do uno, mezzo. A me mi pare che senza antenna. Metto la pace, non ci sentiamo, dai. E infatti, non c'è un franco di sorso, Franco di sorso, però è un portatile, capito? Ma appena perso riuscito a capire che era Franco, capito? E ha detto che era con un portatile, è stato lì, capito più? Ma pigliate barricetto, devi apra, aiuto, segnale c'era, ma la radio non si capiva un tubo e ma la pena sono riuscito a capire che eri tu. Stavo provando, ho provato un po', perché il numero, se mi ha portati, sono io che ci faccio conoscere. E l'ho accesa a vedere per come andavano. Adesso già va, solo che sono apparecchio che non accendo, non capisco. Ok, beh, sai che tu sei qui, perché il segnale c'era, era buono, però radio non c'era, aspetta, a malapena sono riuscito a capirne, a capire che eri tu, capito? È tutto lì, vai, grazie. Ciao Franco, è bello, ce l'hai l'adattatore a attaccare l'antenna grande a vedere se funziona bene. E perché non viene attaccata? L'antenna grande l'ha attaccata. Ah, è attaccata l'antenna grande. E ci bacio. Io il portatile che ho dato l'attaccavo l'antenna grande e sparava come un baracchino normale grande. Vero Giommari? C'è l'apparecchio buono. Assettato c'è qualche altra cosa che non andava perché il segnale era buonissimo e la radio era, e beh, qualche cosa sulla radio che non va bene, o capito sta. Sì, si conosce così, Giovanni, dai, cosa non va nella radio, nella tutti sì, no. Sì, va bene, questa è una sera di controllo, va bene. Come lo vivono ancora, oppure vogliono morire. Cambia la capsa. No, io lo so, adesso lo controllo, lo così, vediamo un po'. Ma dai a Torello e te lo fai guardare da Antonello e te lo mette a posto. Yeah, una cosa che non è che mi sono rifiutato, l'ha scritto. Ah! Ho detto che è una cosa che non è che mi sono rifiutato, ma io l'ho provato adesso perché mi sono entrato in mano. Se no, non è che mi ricordavo di avermi. Ah! Vabbè, già sono belli, là. Io quello che ho dato lo usavo qua in zona, qua vicino, e sciave con l'antennino di gomma suo. Oh. E invece poi ho preso la datatore e lo usavo con l'antennone e sparava benissimo. Poi la radio era pulita, pulita. Che la metti che ho male? Professore, altro tipo di radio, capito, grazie. Insomma, è entrato in mano e ha provato a vedere se funzionava. Il segnale c'è, ma la radio si fa benedire, capito? Per cui non ricontrollerà. Ok, vediamo un po' se c'è ancora Roberto di Ugino. Roberto ha fuso tutto. O si è associato all'antenna, grazie. Gesù mio, sei associato o sei innastrato con un nastro? E invece, non è per caso che invece gli ha la cena con lo scoccio, ti ha arrivato una bocca con lo scoccio. E allora, deve essere tutto riato. Avanti, più. Per radiali, e bu. Basta, perché la piazzata in campagna sicuramente non ci sto scendendo più a dormirci, perché prima il periodo estivo scendevo da giugno, anche da maggio, e me ne ritornavo a salire da settembre-ottobre. Però in campagna non è che la trattavo un bel. A chi viene sempre chi fa, ma qualche volta già la dopo la notte sul comodino accendevo la radio, la lasciavo accesa e ascoltavo, perché se no l'antenna è buona quella. E vabbè, signora voi i nuovi, anche meglio di chi sta in bagno, e quella che c'è tutta vigorra. È rimasto radiale solo, già fra di vero Giovanni, e spara bene. Si tratta il break, ma io direi invece di metterci in radiale, a buttarne su quell'antenna che c'è, la luce legge, ci metti quel radiale che mi apporta da quella di campagna, e l'antenna quella è più nuova di quella che l'hai tolto da campagna. Perlomeno io la penso in questo modo, grazie, perché quell'antenna è già adesso. Guarda che sta funzionando bene, bene, bene, bene, bene, e non ti riquaccio. Se tu ci metti tre radiali, quell'antenna è buonissima, meglio di quella che mi hai sceso da campagna, grazie. Riprende e fai venire avanti i brecchi. Sì, ma lì devo sempre cambiare il tubo, e se non esce il tubo, tocca fare il suo travaglio che ha fatto la guida a me stessi. Cioè io, chi tu me l'ha fatta? Se non esce, non manco da chi il tubo. Cioè Mario, sempre lì siamo. Va, vedimmo quando la battemmo. Vabbè, ha fatto il brecco. Buonasera, saluti a tutti, componenti del canale 4. Gianni Capri 2 da questa parte con una buona domenica che mi super cordializza. Riprendi tu Gio Maria, ti rimetto il cambio, vai. Ok, salve, buonasera, ben risentito, buona domenica a te e famiglia. Insieme P2, Franco da Sierra Oscara, Graziano, lo chef. barbiere, sottoscritto. Mi sembra che c'è anche coso, Roberto D'Ausilo, che stava legando l'antenna, ma mi sembra che sia legato lui, no? E non è entrato per quello. O se sta affettato che altri che voleva prendere l'antenna Graziano. Fra, rifisitela. Ciao Gianni, Capri 2, ben sentita, adesso c'era un po' di giorni senza accoppiarti, cos'eri in trasferta? Ma ieri sera non sono entrati un po' da fare, qualche correttina, grazie. Ieri sera c'era questa manifestazione in paese delle cantine, hai capito, varie cantine, come fanno anche negli altri paesi, stiamo copiando un po' anche noi a Muros. E niente, ma siccome io non posso bere, sono un po' di tempo che ho accantonato le bevande alcoliche da una parte, ho partecipato, capito, però diciamo come astemio, già che mio figlio, hai capito, lui ha bevuto anche la parte mia, un po' di tappe abbiamo fatto, un po' passato una serata così. E niente, poi il resto già sono sempre qui. Ok, Franco, comunque ti ascolto con la buonasera, saluto anche, mi sembra di due a vedere un altro amico, Roberto, una roba del genere. Ok, perfettamente, Franco, il sorso, capri due, ti rimetti il cambio, poi sei, le vai. Ciao Gianni, sono Capito Bani, se mi senti, non lo so se arrivo da quelle parti, buonasera, ben sentito. Dipende fra. Capo. Oggi ti volevo fare un interrogativo. Per Midland il vintage, 78574, ma quello lì va anche a corrente. Sì, lo sto usando adesso, però è questo che sto usando adesso, Franco. Allora, adesso io sono alimentato con l'alimentatore della Betagina 40 a 12 volt. Allora non va a 220 ma va a 110, attenzione non collegarlo che lo bruci, va a 110 volt, ci vuole l'autotrasformatore per attaccarlo alla rete. Papà, domani non ho sentito. Ok. Dice sì, va alimentato a corrente, c'è un alimentatore ci vuole, capito? Perché va a 110 a quanto ho capito, non è che va a 220, è a 110, ha detto Gianni, quello lì. Capo, io pensavo che potevi collegarlo direttamente alla china della 220 e poi gli dava quella corrente lì, dei 110. No, allora niente. Allora già va bene, con l'alimentatore già va bene, è uguale. Va bene, a me che ti prendi tu, dai, tuo marito, e fai girare tu. Ok, e infatti ci vuole autotrasformatore, ci vuole lì in quella pericola, e se no se lo metti a 220 si brucia subito, va a 210 quella lì, okay. Bene, allora, chi altro c'era? Pidu, vai tu, vai! Sto dicendo, lì a muro sto altro. Ciao, sì, chi ha Pidu, un po' di QRM, c'è un po' di QRM, comunque più e buonasera di nuovo, c'è un po' di QRM, a volte ti copre, capito, poi non c'ho neanche le cuffie, se ci sono me ne metto più, senza le cuffie che mi danno fastidio adesso, non sta un male, sono guarito, ma con le cuffie mi metto più. Ok, niente, a 110 volt, a 100, anche a 125, però ci vuole l'autotrasformatore, io ce li ho, perché c'ho i baracchini valvolari, c'ho le apparati valvolari, però lo alimento con l'alimentatore da 40 ampere della ZG, infatti collegato sull'alimentatore che ho qui a fianco, che alimento anche qualche apparecchio professionale, ok. E niente, non so anche se si riferiscono a Sassari questi alimentatori dell'autotrasformatore. un altro che me l'ho autocostruito perché ci avevo il trasformatore. Ok, Graziano, dimmi quando ti sono arrivato, se sta funzionando bene, perché sto usando proprio il Midland 7574. Come arriva lì, Graziano? Va bene? Qua a me mi stai arrivando 9 più 5 picchi positivi. Ok, allora già funziona bene. Funziona bene, ha sempre buttato sotto qui, diciamo c'è una specie di mobiletto, hai capito, mobiletto, era quello di cui io malipote tu li avrei visti, di cui di scout, sotto la televisione, ne avevo comprato 3. Ho preso e ho gli apparati, hai capito, li ho uniti assieme, ho preso gli apparati, hai capito, e c'è anche niente, e quindi l'applicato l'ho dato, l'ho attacco, perché di solito modulato con gli altri apparati, però anche questo dovrebbe girare funzionale. Tutto lì, niente, mettiamo il cambio a questo Roberto, mi sembra che lui è male, infatti Roberto c'è assolutamente capitato in due. C'è un americano che ci copre, capito? Poi c'è una portantina che porta presso, deve essere qualcuno della propagazione, che c'è la portantina piccolina, piccolina, però non ti disturba, tutto lì. Bene, e io ne approfitto, dai, chiudo, sono gli 8.004, per cui ne approfitto a chiudere. Per cui vi saluto cordialmente, grazie della chiacchierata, Franco, buon presumento, Graziano, Gianni e F2. E chiudo, dai, con la volontà, a domani se coincide. Riprendi, grazie a tu, dai, vi ascolto per il finale e chiudo, vai. Ehi, ciao Gio Maria, buona carica quando la fai. Saluto una correa familiare. Alla prossima, domani. Bene, io ne approfitto lo stesso a salutare tutti quanti. Rilancio il tutto a Gianni. Ce la presentiamo a domani, chi no che mi sono già ciamelli. A papà, riprendi Gianni. Perfetto, sì, grazie, Graziano. Saluto Gio Maria, allora saluto anche a te, grazie a io, diciamo, lo accedo così giusto per vedere chi c'era, magari più tardi, dopo c'era, se c'è qualcuno, riprendiamo a fare un po' di quel SEO, se no, pazienza, sarà rimandato in tutto domani. Comunque, salutoni, grazie a Gio Maria, e ci risentiamo. Rimetto, diciamo, il cambio a Franco, poi farà girare per MV2, e anche io ne approfitto perché lo lascio in quel reitisi, visto che li ascolto non molto bene, e quindi, hai capito, il questione diventa un pochettino di piccolo. Ok, di nuovo Franco in sorso, Capri 2 ti rimetto il cambio, avanti. Ciao già, guarda, forse ho aumentato qualcosa, che ho aumentato qua, voglio risentimento. Ciao, ci vediamo più tardi, ciao, riprendi Franco. Questo qua è un capitolo già ne ha chiuso. Va bene, dai. Ciao Gianni, ciao Maria, ciao Graziano, a tutte le prossime, dai. Magari a domani. Ciao a tutti. Ok, chiuso, dai. Ciao a tutti, ciao. Ciao a tutti.